Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo sempre delle prospettive di crescita e delle stime sul PIL. Lo faremo in due modi diversi: da un lato utilizzando un indice che ogni anno raccontiamo, è un indice empirico, collega sostanzialmente l'andamento del turismo d'affari, di chi viaggia per motivi di business, per lavoro, con quello che è poi l'andamento del PIL. Si chiama indice di la correlazione statistica, per dirla in maniera un po' alta, è molto alta, scusate il gioco di parole, cioè quando aumenta quell'indice aumenta, cresce anche l'economia, e quando quell'indice cala, cioè l'attività dei viaggi d'affari cala, cala anche l'economia. È quello che si chiama un indice empirico con capacità predittiva, cioè di prevedere quello che succederà. Siamo andati oggi a confrontare quello che aveva previsto questo indice sull'attività, sui viaggi d'affari, rispetto a quello che si è verificato col nostro PIL, e poi anche la previsione sull'anno prossimo. Questo per usare anche appunto elementi empirici, non solo la stima statistica dell'ISTAT. Poi c'è la parte più istituzionale, visto che oggi il Premier Renzi è tornato sul PIL. L'ISTAT ha confermato che nel terzo trimestre abbiamo fatto più 0,2, e che vuol dire più 0,8 rispetto a un anno prima. Vuol dire che la crescita acquisita, se anche nell'ultimo trimestre non crescessimo, la crescita fosse pari a zero, comunque quest'anno faremo più 0,6. La stima sostanzialmente dell'obiettivo finale del governo era dire cresciamo all'1%. Renzi oggi ha detto però, secondo me, chiudiamo allo 0,8, anche se il Ministero dell'Economia e Finanze sostiene lo 0,9. Non è uno 0,1 che fa differenza, l'importante è spiegare bene perché, e quindi non imputare quello che è successo nel terzo trimestre al terrorismo, non c'erano ancora stati gli attacchi a Parigi, ma imputarlo a un rallentamento dell'economia internazionale, quindi a un export meno forte nostro rispetto alle attese, mentre i consumi interni, le due gambe del PIL sono le esportazioni e i consumi interni. L'export è un po' rallentato rispetto alle attese perché Cina, Brasile, oltre che Russia, stanno rallentando, e i consumi interni invece vanno un po' meglio, ma non abbastanza meglio, o non sufficientemente meglio per essere più corretti, da permettere forse di mantenere la stima dello 0,9%. Tra l'altro il ministro Padoan oggi nell'evento, nella seconda giornata dell'evento del Sole 24 Ore dedicato all'innovazione e alla capacità di innovare per crescere, oggi intervistato dal direttore Roberto Napoletano, ha detto: beh, insomma, io non ho mai scritto, non ho mai detto che lo 0,9 fosse un vincolo unico, e lo ha ribadito anche il premier Renzi, che ha detto: Padoan mi ha scritto di tenere la linea sullo 0,9. Ha svelato il messaggio del ministro, però tiene la linea, ha detto non è Roma-Fiorentina. In realtà, ripeto, il ministro dell'economia Padoan, intervistato da Roberto Napoletano, ha detto: penso che la fiducia prevarrà sulla paura, e ha ricordato come siano venuti meno, comunque sia venuta meno la spinta dei paesi emergenti, e poi ha aggiunto che stanno valutando risorse aggiuntive per il mezzogiorno. Ascolteremo alcuni di questi passaggi. Poi ci occuperemo di lavoro, perché oggi i dati diffusi dall'Istat sono in chiaro scuro. La disoccupazione è scesa, e questa è una buona notizia, dall'11,8% all'11,5%, e quindi a livelli più bassi come dato della disoccupazione dal 2012. Il miglioramento però è riconducibile all'aumento degli inattivi. Allora, bisogna sempre tornare alla definizione di cos'è la disoccupazione secondo l'Istat: è il numero di persone che non trova lavoro tra quelli che lo stanno cercando. Quindi non tiene conto di chi esce dal mondo del lavoro, cioè non sta più cercando un lavoro perché è sfiduciato, perché ha motivi privati, perché ha motivi di salute, perché ha motivi familiari, perché fa un calcolo economico rispetto a quello che è l'offerta del mercato per il suo profilo e quanto gli costa, quanto può, soprattutto nel caso delle mamme, quanto invece può essere più conveniente stare a casa. Ora, l'Istat quindi ti dice semplicemente chi non sta trovando lavoro tra chi lo sta cercando. Lo spiego perché il dato di oggi è il frutto soprattutto dell'aumento degli inattivi, cioè di quelli che sono usciti dalla ricerca del mercato del lavoro, non studiano e non lavorano, ma non lo stanno nemmeno cercando, più 32.000. Torna a salire purtroppo la disoccupazione giovanile, che passa dal 39,5% di settembre al 39,8%. Renzi ha detto i dati sono migliori delle previsioni di inizio anno, la disoccupazione è all'11,5%, quella giovanile al 39,8%, e in effetti è scesa rispetto a inizio anno, e invece un po' salita rispetto a settembre, che era al 39,5%. Gli occupati complessivamente sono 75.000 in più rispetto a un anno fa, sono in crescita nella fascia sopra i 50 anni, 900.000 in più in tre anni, ma questo come effetto del rinvio dell'età di pensionamento. Bisogna leggere bene queste cifre. Nella fascia più giovane, in questo caso neanche così giovane, tra i 34 e i 49 anni, negli ultimi tre anni invece si sono persi 450.000 posti di lavoro. Sono aumentati soprattutto i contratti a tempo determinato, i contratti a tempo indeterminato rispetto sono 14.527.000, l'incremento di sole 1.000 unità rispetto a un anno fa. È ovvio che il governo punti al dato della disoccupazione complessiva che scende all'11,5%, noi però abbiamo il dovere di spiegare bene questi dati e non propendiamo né per uno né per l'altro. Ne parleremo infatti dopo le 18. 349-238-6666 per i vostri sms, per la pagina di WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda invece il mercato azionario, meno 0,20% Milano, meno 0,80% Parigi, meno 1% Francoforte, più 0,60% Londra e più 0,60% anche il Dow Jones. L'euro è tornato sopra quota 1,06 a 1,0611. Bene, la Pop Emilia Romagna più 2,70, la Pop Milano più 1,20, Ferragamo più 1 come Mediaset e Moncler, Campari più 0,70 come Buzzi, Unicem e Tod's. In calo Tenaris del 2,60, Prismian dell'1,70 come Telecom Italia, CNH meno 1,20 come Atlantia. L'1% lo perdono sia Fiat Chrysler che Eni, Finmeccanica cede lo 0,60%. Allora, vedo che molti stanno scrivendo sui dati sulla disoccupazione. Avremo un approfondimento apposito, però su questo si concentrano oggi anche i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Promuovi il tuo business con i servizi di Nuvola Store di Team Impresa Semplice. Con contatti Power e Vetrina Power dai più valore ai tuoi clienti e alla tua attività sul web. Info su nuvolastore.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Ancora dati contrastanti per il germoglio della ripresa italiana. Innanzitutto parliamo del PIL del terzo trimestre. Ci si aspettava che la revisione dell'Istat del dato grezzo, che aveva segnato un timido più 0,2%, potesse venire corretto una volta acquisita la performance del turismo, che ci si attendeva come brillantissima. Invece il dato di oggi raffredda gli entusiasmi, perché l'effetto del turismo non c'è stato e il PIL resta a più 0,2%, con un'attesa di crescita annuo però in calo dallo 0,9% allo 0,8%. Sono decimi di punto punto, apparentemente inezie, ma sono segnali decisivi per la fiducia nel momento in cui il quarto trimestre sconterà anche l'effetto paura della guerra al terrorismo dopo le stragi di Parigi. I segnali sono discordanti, abbiamo detto, per ora si può notare con favore che la spesa delle famiglie è al massimo storico, con un aumento dell'1,1% sull'anno scorso, ma si deve prendere atto che pesa il calo delle esportazioni, soprattutto verso i paesi emergenti, che finora sono stati un vero approdo del Made in Italy con funzione di salvavita delle nostre produzioni. Anche il dato sulla compravendita delle case segnala un aumento nel terzo trimestre pari al 10% e questo fa ben sperare, ma non fa ben sperare il calo degli investimenti fissi lordi che sono scesi dello 0,4% in un momento in cui invece l'economia dovrebbe scommettere assai di più sul futuro. Quindi segnali contrastanti e non bisogna perdere l'occasione per corroborare la fiducia, perché altrimenti il germoglio della ripresa italiana avrà vita breve. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Iniziamo a raccontare le prospettive sul nostro PIL al di là delle stime e dichiarazioni ufficiali, però una notizia in breve la devo dare, riguarda il mondo dell'auto, perché se è vero che il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, ha detto, rispondendo delle domande a margine di un seminario sul Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti, il problema non è solo tedesco, che il riferimento, scusatemi, era il caso Volkswagen, è andato a scombussolare tutti quanti le aspettative e tutto il modo in cui dovremmo gestire l'ambiente. Non è solo un problema tedesco, in effetti siamo diventati tutti oggetto di interesse, ha aggiunto Marchionne. Oggi c'è un primo dato che riguarda l'impatto del Dieselgate su Volkswagen negli Stati Uniti: sono crollate le vendite, meno 24,7%. Alla faccia di chi diceva attenzione, tanto il dato non dovrebbe essere così negativo perché non è un difetto, ed è vero, non è un difetto strutturale della macchina o un malfunzionamento. Se n'è avvantaggiata anche Fiat, comunque, che ha fatto il miglior novembre degli ultimi 15 anni. Le vendite di Fiat Chrysler negli Stati Uniti sono salite del 3% a 176.000 unità. Parliamo di PIL, ma come dicevo in apertura del programma, affrontiamo il tema in maniera un po' più empirica e non solo col dato dell'Istat. C'è un indice su questo, però per parlarne, un indice che viene presentato ogni anno noi lo raccontiamo, ripeto, va a vedere come si muove il turismo d'affari e pone una correlazione con l'andamento futuro del PIL, presentato questa mattina nella prima giornata di lavoro del Business Travel Forum a Milano, un appuntamento annuale dedicato al turismo d'affari, organizzato da UVET American Express. È con noi il presidente di UVET, nonché di Confturismo, Confcommercio, Luca Patarè. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. La cosa più interessante, e vi arriveremo, è l'indice che voi sviluppate, perché in questo programma siamo soliti portare anche indici abbastanza empirici. Ne abbiamo parlato con chi rappresenta il mondo dell'autotrasporto per capire se si segnalino punti di ripresa anche a livello di ragionamento empirico, e voi ogni anno sviluppate un indice sulla base di 3 milioni e mezzo di dati per vedere qual è la vostra previsione sulla crescita del PIL. E devo dire che è un indice, come dicono gli statistici, molto correlato, cioè va molto vicino alla realtà. Se segnala un aumento, è molto vicino a quello che poi capita realmente l'anno successivo. Andiamo con ordine però, Patanè, partiamo dagli attacchi terroristici, dalla minaccia del terrorismo. State registrando a livello di incoming, come si chiama in gergo, cioè chi viene in Italia, ma anche a livello di outgoing, cioè chi va all'estero, una flessione o l'inizio di una flessione significativa? Noi abbiamo notato, al giorno dopo gli attacchi terroristici che sono stati in Francia, abbiamo notato una flessione, e anche si percepiva a Parigi stessa la flessione, gli aeroporti erano più vuoti. Però, come abbiamo già visto in altre occasioni, è una risposta emotiva che poi di solito si accorcia, e quindi noi notiamo che questo periodo è più breve adesso. Quindi voi ritenete che l'effetto sarà un effetto temporaneo, diciamo? Sì, ogni volta che c'è un attacco è sempre più veloce. Anche con Charlie Hebdo, all'epoca quando c'era stato Charlie Hebdo era stata la stessa cosa. Non temete però che, lo dico con massimo rispetto, che il peggioramento continuo della situazione in Medio Oriente, intendo dire chiaramente anche l'area del Mar Rosso, oltre che il Nord Africa, l'area medio orientale, metta in discussione proprio le mete. Non è solo un problema di paura, non è che io ho paura a prendere l'aereo, poi lei dice dopo un po' questo effetto in un tempo anche abbastanza breve si placa, però io inizio a essere sprovvisto di mete, che per carità quest'estate è servito all'Italia per avere appunto più ingressi di turisti che non andavano in altre mete, ma noi non possiamo, diciamo, utilizzare questo per esempio nel periodo invernale in cui le mete del caldo non possono riguardare l'Italia. Beh, sicuramente un condizionamento sull'Egitto c'è stato in tutto questo periodo, in tutti questi anni, perché ormai sono dalla primavera araba in poi, sono un po' di anni che l'Egitto è condizionato da più o meno crescita o decrescita del fenomeno. Sicuramente d'inverno, e proprio in questa stagione, diciamo, le mete di medio raggio sono fortemente diminuite. Veniamo all'indice. Allora, l'anno scorso il vostro indice stimava, adesso non posso spiegarlo, poi in radio è un po' difficile mostrare i grafici, ma stimava che quest'anno avremmo avuto una crescita del PIL dello 0,7%. È polemica appunto di questi giorni, il governo dice lo 0,9 non lo faremo, c'è il terrorismo. Noi abbiamo fatto notare, tra virgolette ribattuto, che in realtà già l'Istat nel terzo trimestre con uno 0,1 aveva fatto capire che difficilmente si sarebbe arrivati a uno 0,9. Comunque, che sia 0,9, 0,8 o 0,7, la vostra previsione per quello che ci riguarda in questo momento è stata azzeccata. La previsione dell'indice a questo punto sul 2016 è 1,6. 1,6%, quindi più alta di quella che stima il governo. Sì. E l'indice di è il cosiddetto fattore di correlazione, cioè quanto ci azzecca l'indice, per spiegarlo in maniera non statistica. Aumentando il numero dei dati e avendo una progressione annuale ormai sempre più lontana, perché abbiamo iniziato a raccogliere i dati dal 2006 e dal 2011 iniziamo a elaborare con Ambrosetti questo indice, il lavoro viene, diciamo, premia ogni anno sempre di più l'elaborazione, e abbiamo iniziato anche a avere delle indici previsionali sempre più chiari e attinenti. È ovvio che un fattore straordinario può alterare sempre un indice, quindi bisogna sempre cercare di vederlo in un anno normale, quindi dove la normalità deve essere ricondotta a fenomeni che noi possiamo controllare o comunque possiamo definire. Ci sono dei criteri per lo sviluppo delle imprese italiane interessanti, che sono anche la svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro, quindi questo è interessante perché tende a aumentare l'esportazione delle nostre imprese verso quei mercati. Oppure, da un certo punto di vista, c'è anche un rinnovato interesse delle aziende americane a investire in Italia, o un interesse sempre più grande da parte delle aziende cinesi a investire in Italia. Sappiamo che ultimi giorni fa il Palazzo della Zecca a Roma è stato acquisito da un gruppo cinese. Sì, diventerà un albergo a 5 stelle, se ho ben visto. Sì, a 5 stelle, esatto. Il palazzo tuttora della Zecca dello Stato. Ecco, lei diceva più 1,6% il PIL, ripeto, analizzando ormai noi da anni come indicatore empirico, vediamo che l'indice ci azzecca abbastanza, o meglio, per dire in maniera alta, la correlazione di questo indice con la realtà è molto stringente, quindi non abbiamo motivo per dubitarne. Lei già qualche riferimento lo faceva, ma da dove dovrebbero arrivare i flussi più interessanti? Mi riferisco in questo caso soprattutto all'incoming, cioè turisti. Il vostro è un indice che si sviluppa per i viaggi d'affari, quindi stiamo parlando di un turismo d'affari, non di un turismo, diciamo, solo per svago, anzi. Però da dove notate i flussi più interessanti verso l'Italia? Sono in esplosione i flussi dalla Cina verso l'Italia. C'è una crescita media del 20-25% annua negli ultimi anni. È chiaro che i cinesi non sono gli americani sono circa 6 milioni che vengono in Italia mediamente. Quest'anno nel 2015 abbiamo avuto l'Expo, quindi abbiamo avuto, diciamo, un fattore straordinario. L'anno in turno c'è il Giubileo, e quindi bisogna anche tenere conto in questi due anni dell'impatto sia del Giubileo che dell'Expo, quindi sono due impatti straordinari questi che sicuramente porteranno all'economia italiana dei dati importanti. Io non ho i dati di Expo di chiusura dal punto di vista economico, ma penso che abbiano generato un grosso fatturato, diciamo, per l'area in cui si è svolto. Allora, resti con noi, Patanè, perché adesso il meteo e la pubblicità, poi torniamo. Vorrei capire anche insomma quanto conta aver aperto certe rotte senza fare pubblicità per nessuno, ma non è un mistero che sia per l'incoming, cioè per chi, per far venire i cinesi, gli emiratini e quant'altro in Italia, sia per l'outgoing, per andare noi su quei mercati, serve una piccola cosa che si chiama rotte commerciali. Alitalia sta investendo molto su questo, l'ha fatto anche Emirates, l'ha fatto anche Qatar, insomma vorrei capire se poi questo modifica l'indice dell'attività del lavoro, averla rotta o no, non è scontato, ma la risposta dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con il presidente di UVET e di Confcommercio, Confturismo, Luca Patanè. Dicevamo, quanto conta aver aperto certe rotte commerciali per voli diretti, per aver aumentato anche l'andamento della clientela d'affari? Sono fondamentali, anche perché, sempre l'esempio della Cina, secondo me è importante, città dalla 91 saranno collegate, città come Chengdu, Kunming, direttamente sull'Italia, dove ci sono 20 o 30 milioni di abitanti, dove c'è ad esempio la Detroit cinese, e da questo punto di vista sia le grandi compagnie aeree cinesi, sia l'Italia Etihad, sia Emirates, la Turkish, anche, che stanno aprendo tutta l'Asia, stanno avendo un incredibile risultato economico nei confronti del nostro paese. È solo da crescere, un trend nei prossimi 10 anni da prendere in pieno. È chiaro che poi ci può essere interesse, ma se tu non metti l'infrastruttura, diciamo così, quindi la rotta, certo, la rotta commerciale, la rotta aerea, te ne fai poco dell'interesse. Diceva, o se gli aeroporti funzionano bene anche e siano molto efficienti. Lei si riferisce a Milano o a Fiumicino? No, beh, mi riferisco al sistema aeroportuale italiano. Ovviamente, diciamo, l'incidente di Fiumicino ha rallentato, secondo me, la capacità di assorbimento di maggiori passeggeri. Speriamo che sia risolto questo problema qua, perché incrementa sicuramente, un aeroporto efficiente incrementa esponenzialmente l'ingresso di traffico verso l'Italia. Per quello che riguarda i flussi degli Stati Uniti, sempre come arrivi ma anche partenze, poi vorrei capire gli altri paesi europei. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli Stati Uniti sicuramente, noi, per quello che possiamo vedere, abbiamo un effetto hub degli Stati Uniti verso l'Italia molto importante, con una ripresa del traffico. Cosa vuol dire l'effetto hub? Intendo un effetto da, ad esempio, una città come Atlanta, che è un classico, sì, hub, non è una destinazione. New York è anche una destinazione, oltre ad essere, capito, un hub. Atlanta è un hub. Dall'hub verso di noi, un effetto quindi che raccoglie da tutte le città degli Stati Uniti, raccoglie un traffico interessante verso l'Italia, e Stati Uniti verso Italia è un traffico che potrebbe crescere nei prossimi 6 mesi del 7-8%. Idem il traffico italiano, un po' meno Italia verso Stati Uniti. È in crescita il traffico su altre destinazioni, che sono tutte quelle andine sudamericane. In genere, in questo caso è un outgoing, cioè dall'Italia verso questi posti. Dall'Italia verso questi posti, sì, sì. Mm-hmm. Io sto cercando di mixare elementi, perché sono interessanti comunque. Certo, adesso ce li ho. E invece l'Europa, nel senso, l'Europa noi notiamo per la Noventuro, diciamo, una crescita verso l'Italia di traffico spagnolo verso l'Italia, e dell'Italia verso la Spagna, abbastanza più consistente dell'anno passato, che non è stato un grande anno, mentre invece notiamo una stanchezza nei dati Germania e Francia, ma sia come sia verso la Germania che dalla Germania, sì, cioè un doppio fronte outgoing ed incoming, come dite voi. Andiamo a questo punto agli elementi di criticità. Oggi nella prima giornata di lavori ne sono emersi alcuni: tema infrastrutturale di questo paese e tema anche relativo alla politica degli aeroporti. Voi cosa chiedete, visto che lei già vi faceva un riferimento al governo, dal punto di vista di quello che si chiama il disegno, il piano strategico aeroportuale del paese? secondo me bisogna potenziare gli aeroporti principali del paese, non 20 aeroporti ma 4 o 5, e farli considerare questi aeroporti punti di riferimento sia del business in certi casi, e quindi città che abbiano sia vocazione business che vocazione turistica, e quindi sulle 4 o 5 punti di maggior snodo del paese svilupparli più possibile. Poi c'è il tema del sud, che è un tema molto aperto, ma dove aree di turismo che invece nella direttrice nord-sud, ad esempio Nord Europa, Sud Europa, sarebbero da sviluppare molto di più, proprio perché abbiamo un enorme potenziale inespresso. Ultima nota sull'Expo. Allora, lei l'anno scorso, nel raccontarci quello che l'indice, e ripeto, correttamente si è collocato un più 0,7 del PIL, individuava appunto un più 0,7 del PIL, che è il dato di quest'anno minimo, poi vediamo se sarà 0,8. Lei ci raccontava di essere molto ottimista un anno fa per l'apertura dell'Expo. Non erano in tanti a novembre ad essere ottimisti, c'era ancora molto scetticismo, anche logico, ce la faranno ultimare i lavori, siamo in ritardo con i tempi, non deve piovere a novembre, dicembre, gennaio, febbraio e quant'altro, sarà un flop, non sarà un flop. Ora, l'Expo è stato un successo, lo dico perché conosco già le polemiche, gli sms, le scritte, i messaggi su WhatsApp che mandano alcuni ascoltatori. È stato un successo, non ho trovato sulla stampa estera nessuna critica di rilievo come abbiamo organizzato l'Expo. E ogni tanto, quando le cose le facciamo bene, bisogna anche dirselo, è inutile tifare sempre contro la nazionale. Detto questo, alcune cose non avranno funzionato, altre meglio. Non ci si può lamentare se c'era troppa fila, perché vuol dire che è un successo. Lei però aveva fatto anche una scommessa sui pernottamenti a Milano, diciamo nell'area interessata, e ci aveva annunciato che aveva comprato in anticipo quanti posti letto a suo tempo? Avevo comprato 150.000 posti letto circa. Ecco, da questo punto di vista invece gli albergatori a Milano si sono un po' lamentati, nel senso che hanno detto: ma l'Expo sì, sarà stato un successo per chi lavorava lì dentro, ma per noi albergatori, in parte anche i ristoratori, questo grande successo non si è visto. Vorrei capire se questi posti letto invece ha fatto bene a comprare in anticipo, perché lei diceva: se poi ci sarà scarsità per chi viene a Milano tradizionalmente per lavorare e deve dormire, io almeno avrò un pacchetto in più, oppure anche lei, come alcuni albergatori, ha sopravvalutato la richiesta di alloggio, diciamo. Diciamo che si sono sposate più componenti durante l'Expo. C'è stata l'esplosione anche delle affittacamere e delle stanze Airbnb, diciamo, Airbnb, il fattore Airbnb, diciamo, da una parte. Dall'altra parte c'è stata una partenza lenta con l'Expo, quindi è stato un successo nel suo complesso. Diciamo che è partito in salita soprattutto in maggio e giugno, dove in effetti è stato uno dei maggi più bassi di occupazione a Milano, e quindi anche noi che avevamo acquisito delle camere ne abbiamo sofferto per mancanza di clienti. Quindi da questo punto di vista forse il punto forte dell'Expo è che la promozione che è stata fatta poteva essere fatta molto più forte e molto prima, affinché venissero più stranieri a Milano e soggiornassero di più nella nostra città. Questo era un po' col senno di poi, perché sono tutti bravi col certo. Senno di poi a dire le cose. Ovviamente io ho fatto una scommessa, certe cose vanno bene, certe cose vanno meno bene. Apprezzo molto la sua onestà intellettuale, quella cosa lì non l'ho imbroccata del tutto. Io ho pure avuto un'altra sensazione in tema di alloggi per l'Expo, dottor Patanè, e cioè: chi ha visitato l'Expo sa cosa voglio dire. Era talmente ben collegato, che uno fa la battuta, non sembrava quasi di essere in Italia ma in Francia, e cioè la metropolitana, il treno ad alta velocità, la linea regionale delle Ferrovie Nord, tutto che arrivava praticamente dentro l'Expo, con questa uscita davanti ai cancelli, come avviene in Francia, infatti, quando vai a prendere un aeroporto, che l'alta velocità ti porta davanti all'aeroporto, che diventava molto conveniente grazie in questo caso all'alta velocità, ma anche alla metropolitana, anche alla linea nord, risiedere altrove. Cioè, da Bologna, da Firenze a Milano è un'ora e tre quarti o 50 minuti, Venezia era collegata, o Torino non era collegata allo stesso modo. Quindi la sensazione mia è stata che molti turisti possono aver detto: o vado a vedere l'Expo in giornata, perché se sei italiano il costo economico incide, e quindi prendo un treno e riprendo l'ultimo treno la sera, e che gli stranieri possono aver detto: ma io risiedo o dormo a Venezia, dormo a Torino, dormo a Firenze, dormo a Bologna, vedo l'Expo e poi torno. Cioè che paradossalmente un punto di forza della logistica dell'Expo sia stato per voi, abbia avuto su di voi, che va a telecamera, un effetto boomerang. No, forse così accentuato no, però sono d'accordo con lei sull'analisi che è stato uno dei grandissimi fattori di successo dell'Expo, la logistica, come hanno integrato l'arrivo delle persone, la fuoriuscita delle merci, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista è stato forse uno anche inaspettato, perché noi spesso siamo critici sulle nostre infrastrutture così, ma in questo caso le infrastrutture hanno funzionato da Dio, e quindi da questo punto di vista magari anche in parte anche quello, in parte forse anche quello, però io mi rivolgevo un po' più verso gli stranieri, e lì dove secondo me abbiamo inciso poco nei primi mesi dell'anno, con stranieri che stavano uno, due giorni, tre giorni a Milano, non svizzeri che magari prendevano il treno e stavano una giornata, o gente col pullman che faceva un tour dell'Italia ma dove non si fermava a Milano ma usava il pullman per poi andare da altre parti. Comunque questo è il senno di poi, ormai c'è stata, sappiamo benissimo che ad esempio Dubai la promozione è partita oggi, è molto pesante per il 2020, quindi probabilmente loro non hanno una città come Milano piena di cose belle da vedere, devono ricrearle, quindi per loro la sfida è ancora più dura. E vedremo come andrà. Grazie a Luca Patanai, appunto, presidente del gruppo UVET e presidente di Confturismo e Confcommercio. Grazie. Breaking news. Abbiamo parlato nel GR delle 17 dell'esplosione avvenuta oggi pomeriggio nei pressi di una stazione della metropolitana di Istanbul. Poco fa è arrivata la conferma, è stata causata da una bomba. La fonte che l'ha riferito è il sindaco della municipalità locale, aggiungendo che al momento risultano 5 persone ferite. Dunque una bomba esplosa nei pressi di una fermata della metropolitana di Istanbul alle 18. Tutti gli approfondimenti. Grazie a Anna Rita D'Ambrosio per l'aggiornamento. E si parlava appunto di turismo, temo che ci stiamo, allora al di là delle, speriamo che restino solo feriti, ci mancherebbe, ma capite bene che poi è difficile parlare di flussi turistici fuori se iniziano ad esserci le bombe anche alla stazione della metropolitana di Istanbul. Andiamo sul traffico adesso, poi la borsa e poi anche tutti gli altri dati sulla disoccupazione, sul PIL di oggi. 349-238-6666 per i vostri sms e anche per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, adesso vi aggiorneremo anche, ahimè, sulla conferma che a Istanbul è stata una bomba, come appunto ricordava la nostra breaking news. Vedo molti messaggi che ricordano come il costo delle camere durante l'Expo fosse triplicato, duplicato. Sì, soprattutto all'inizio, poi si sono un po' calmati gli albergatori. Andiamo invece al tema, dopo arriviamo anche alla borsa, tanto la giornata di oggi vi assicuro meno 0,60% non è che abbia grandissimi temi. No, volevo restare sul tema della crescita economica, perché l'indice UVET American Express segnala 0,7 quest'anno, e se non è 0,7 sarà 0,8, 0,9, l'anno prossimo più 1,6%, che è un bel dato perché il governo si attende anche un po' di meno. Oggi di PIL e disoccupazione ha parlato il Premier Renzi. Parleremo del dato sulla disoccupazione perché va letto con attenzione, non basta dire la disoccupazione è scesa, perché è scesa come dato complessivo, lo ricordavamo prima, è scesa all'11,5%, il livello più basso dal dicembre 2012, bisogna stare attenti perché è scesa perché sono usciti dalla ricerca di un lavoro molte persone. Comunque Renzi su PIL 0,8-0,9 e disoccupazione. Noi abbiamo fatto delle previsioni dello 0,7 di crescita quest'anno. Poi, visto che le cose andavano un po' meglio, l'Istat ha immaginato di fare 0,9, forse chiudiamo a 0,8, non lo so, mi pare che il MEF abbia detto che secondo loro chiudiamo comunque a 0,9. Se l'Italia rimette in moto la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi, l'Italia riparte. Ciò che può fare il consumo interno, anche rispetto alle previsioni di crescita, è pazzesco, è straordinario. È ripartito, poi, secondo quello che dice Istat, noi abbiamo avuto un calo dell'export rispetto alle previsioni, Cina, situazione internazionale dintorni, E però, siccome è ripartito il consumo interno, un aumento dell'import. L'anno scorso la disoccupazione, ottobre 2014, stava al 13%. Oggi è 11,5%. È ancora alta. Però è un punto e mezzo in meno. La disoccupazione giovanile stava al 46%. Adesso è al 39,8%. Se uno è contento perché è al 39,8% va ricoverato. Però nell'ultimo anno siamo passati dal 46 al 39,8%. I posti di lavoro. Nel giro di un anno e mezzo, questo benedetto Jobs Act, che è più o meno contestato, ha fatto 300.000 posti di lavoro in più. I segnali di ripartenza ci sono. Sono sufficienti? Io non mi accontento mai. Io voglio che l'Italia vada meglio della Germania. Però so che un anno fa il dibattito era l'Italia farà la fine della Grecia. Stavolta è l'Italia forse non riprende subito la Germania. Allora, e poi invece anche il ministro Padoan nell'evento, nella seconda giornata dell'evento organizzato dal Sole 24 Ore sul viaggio nell'Italia che innova, poi ne abbiamo parlato anche nei nostri GR, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, ha detto che il governo deve dare anche un sostegno all'innovazione, alle imprese. Adesso lo ascoltiamo, vedo però un flash agenzia che il consiglio di amministrazione di AMA, che è l'azienda dei rifiuti di Roma, ha dato mandato al direttore generale di procedere al licenziamento di 34 dipendenti assunti attraverso la cosiddetta parentopoli. Si tratta di amministrativi assunti nel 2008 a chiamata diretta, tuttora in organico. Beh, che sia un primo esempio, un primo passo. Comunque, Padoan sul sostegno che il governo vuole dare alle imprese quando investono in innovazione, quindi ricerca, sviluppo e innovazione. Il governo è molto interessato a identificare misure che servono all'impresa a funzionare meglio, a investire di più e quindi a avere il principale veicolo per attrarre l'innovazione, per inserire l'innovazione dell'impresa. La dinamica del bilancio pubblico è evidentemente una cifra di cui mi preoccupo molto, la dinamica del debito pure, quest'anno comincia a scendere, è una buona notizia, ma oltre questo c'è la composizione, la domanda che facevo prima, che ci facciamo con quello spazio fiscale che con grande fatica si riesce a identificare nella dinamica di finanza pubblica? Ci dobbiamo fare delle cose che servono al Paese a crescere, servono al Paese a innovare, servono alle imprese a introdurre nuove forme di innovazione nei prodotti, nei processi, nelle organizzazioni aziendali. Oggi la regione più industrializzata con maggior PIL pro capite d'Italia, nonché faccio notare anche una delle tre regioni maggiormente PIL pro capite più alto a livello europeo, sono l'Île-de-France e poi c'è tutta la parte, diciamo, della Baviera tedesca e la Lombardia, ha presentato attraverso Confindustria Lombardia uno schema, le direttrici, diciamo il piano strategico Lombardia 2030. Siamo in collegamento col presidente Confindustria Lombardia, Alberto Ribolla. Buonasera. Sì, buonasera direttore, buonasera ascoltatori. Ribolla, quattro pilastri, per essere molto concreti e chiari, come siamo in questo programma, su cosa volete dirigere lo sviluppo della Lombardia, che poi serve, lo sappiamo, mutatis mutandis, perché ogni regione è diversa, ogni regione ha caratteristiche diverse, strutture economiche e produttive diverse, ma può essere anche un riferimento per altre regioni. Cosa sono questi quattro pilastri? Ma anzitutto mi riferisco alle dichiarazioni di Padoan, sostanzialmente a una cultura di impresa in questo paese ancora sotto molti aspetti latente. Qualcuno dei suoi colleghi parlava di liquido amniotico anti-impresa, quello che deve essere il primo ostacolo, è quello su cui ci vogliamo concentrare di più. Dopodiché il capitale umano, la creazione di capitale umano, c'è un mismatch tra le figure che escono dalle imprese, i cosiddetti periti, e che non riescono a essere rimpiazzate perché non esistono professionalità di pari genere sul mercato. Ovviamente poi c'è l'internazionalizzazione, e quello è un tema scontato, e da ultimo quello dei cluster tecnologici, che è un tema molto caro all'Unione Europea. Quindi da questo punto di vista capitale umano, formazione, cultura di impresa e sviluppo del manifatturiero. L'andamento, visto che lei presiede anche la Confindustria Lombardia, l'andamento complessivo in questo momento, al di là di quello che dice l'Istat sul PIL, com'è? Cioè voi questo principio di ripresa lo vedete, lo registrate o no? Ma dunque, noi svolgiamo ogni trimestre insieme a Unione Camere Lombardia e Regione Lombardia uno studio sulla trimestrale, sulla congiunturale, e abbiamo tre trimestri consecutivi dove sostanzialmente tutti i segni sono verdi. Sono ancora 0, quindi non sono segni fortissimi, ma sono tutti verdi. L'altra cosa veramente importante dal mio punto di vista è che assistiamo a una crescita comunque dei posti di lavoro, ma soprattutto a un riassorbimento della cassa integrazione, che è, come tutti quanti sappiamo, disoccupazione latente. Allora, mi correggo, perché quando l'Italia dei primati, giusto ricordare, la Lombardia è la seconda regione europea per PIL, per generazione di PIL, dopo l'Île-de-France, che è quell'immensa area attorno a Parigi, ma davanti a regioni come l'Inner London, che sarebbe l'equivalente dell'Île-de-France per Londra, quindi la parte l'Alta Baviera, Düsseldorf o la regione di Stoccarda, per cui insomma praticamente con un PIL di 337 miliardi la Lombardia è al secondo posto a livello europeo. Grazie anche al presidente di Confindustria Lombardia Alberto Di Bolla. Andiamo sul GR24, ahimè, con gli aggiornamenti che arrivano da Istanbul, dalla conferma che è stato un attentato alla metropolitana, e poi torniamo a parlare, a cercare di capire senza nella maniera più oggettiva possibile, diciamo così, che cosa sono sti dati diffusi oggi su disoccupati, occupati e disoccupazione giovanile. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Dal 4 dicembre Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà. Il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa, commentiamo la giornata di oggi, ripeto, una giornata senza grandissimi spunti: meno 0,60% Milano, meno 0,80% Parigi, meno 1% Francoforte, più 0,60% Londra, più 0,60% anche il Dow Jones in questo momento. Poi arriviamo invece ai dati sulla disoccupazione. Certo, oggi a livello di notizie internazionali, visto che parlavamo dell'export, di quanto l'export abbia influito negativamente, in questo caso c'è un export rallentato, sta rallentando complessivamente l'andamento del PIL italiano, che pur resta in crescita. Oggi la Cina ha fatto sapere che la produzione industriale manifatturiera in Cina sta rallentando, è sceso l'indice PMI sotto il livello che segna lo spartiacque tra espansione e recessione, dai 50 punti, ed è sceso anche rispetto a ottobre a 49,6 punti. In Brasile invece tutti i dati sulla recessione sono in peggioramento, meno 1,7% nel terzo trimestre, praticamente è un meno 4,5% rispetto a un anno prima, ed è il peggior risultato trimestre su trimestre di un anno prima per il Brasile dal 1996. E a sorpresa si ferma anche il PIL della Svizzera nel terzo trimestre, variazione nulla contro uno 0,2% del trimestre precedente, e il Canada, di cui non parliamo mai, ma insomma ha fatto un meno 0,5% nel terzo trimestre rispetto al settembre del 2014. Un dato del genere il Canada non lo vedeva dal 2009. Allora, la borsa oggi in recupero: Popolare Emilia Romagna più 2,5%, Moncler più 1,5%, Pop Milano più 1,30%, Mediaset più 1%, come Buzzi, Unicem e Ferragamo, Campari più 0,60%. Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Popolare Emilia Romagna. Allora, Popolare Emilia Romagna appunto è stata la migliore tra i titoli a maggiore capitalizzazione e ha risentito positivamente del fatto che Mediobanca Securities ha rivisto il suo portafoglio a lunga scadenza sul mercato azionario italiano e ha inserito proprio la Biper tra i titoli ed è l'unico bancario che è stato, diciamo, come novità inserito, e perché si aspettano novità sul consolidamento delle popolari, che poi è stato un po' lo stesso motivo che ha visto poi il rialzo dell'1,3% di BPM, che in questo caso però non è stata Mediobanca ma è stata Equitasim, che ha alzato il valore e il peso di BPM nel proprio portafoglio principale di 50 punti base, confermando la raccomandazione buy e il target di prezzo, e poi ha definito brillanti quelli che sono stati gli esiti dello SREP, i nuovi stress test della BCE. Ancora tra i titoli, oggi un po' di recupero sul lusso. Moncler ha avuto un incontro con la comunità finanziaria, giusto? Sì, esattamente. Oggi c'è stato questo incontro con la comunità finanziaria, che è stato preceduto ieri da una cena informale con i vertici dell'azienda. Sono uscite tutta una serie di conferme da parte della società su quelli che sono i suoi target per l'anno, e nonostante appunto all'inizio si pensava che potesse esserci qualche indicazione nuova, mentre invece alla fine il mercato ha apprezzato il fatto che siano state confermate, perché c'era un po' di timore su un possibile rallentamento a causa dell'andamento dell'economia cinese, degli attentati di Parigi, anche si parlava di un apparente rallentamento delle vendite negli Stati Uniti. Invece questa conferma di obiettivi che sono stati definiti impegnativi ma comunque raggiungibili è piaciuta al mercato, che alla fine ha premiato il titolo, è stato il migliore del settore del lusso con un rialzo dell'1,53%. Ora Fiat Chrysler, dicevamo di che botta abbia preso la Volkswagen negli Stati Uniti, meno 25% quasi le vendite. Nel primo dato sensibile dopo lo scandalo Dieselgate, Fiat Chrysler negli Stati Uniti ha fatto invece il miglior dato degli ultimi 15 anni, più 3%, eppure il titolo oggi era abbastanza debole, ha perso l'1,41%. Sì, è stato debole in linea con tutto il settore dell'auto europea. Oggi sono uscite le immatricolazioni. Sono uscite. Sì, quelle italiane adesso, però erano uscite in mattinata quelle francesi, poi appunto in giornata quelle degli Stati Uniti. Quindi era una giornata in cui sono usciti i dati un po' da vari mercati, e nonostante, tranne quelli degli Stati Uniti per Volkswagen, sono state un po' positive, alla fine i titoli del settore, da Renault a Peugeot, che hanno perso a Parigi, Fiat a Milano, quindi c'è stato un po' di vendite generalizzate un po' su tutto il comparto, che all'inizio sembrava reggere, invece poi diciamo che il dato su Volkswagen è stato un po' lo spartiacque, ha fatto poi alimentare le vendite su tutti gli altri. Sì, in maniera non così giustificata, perché adesso sto leggendo assieme a te il flash appena uscito, i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a novembre, un altro balzo, più 23,4%, che porta l'aumento nei primi 11 mesi al 15,5%. Tra l'altro, per quello che riguarda il gruppo Fiat, fa meglio della media del mercato, più 26% a novembre, e più 17,7% nei primi 11 mesi dell'anno. Quindi il dato va bene. Invece una notizia ancora non bella per Volkswagen: l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato il voto a Volkswagen da A- a BBB+, con prospettive negative. Andiamo ancora su altri titoli. Molmed. Sì, Molmed è un titolo più piccolo, però comunque è stato uno di quelli più in evidenza oggi, ha preso il più 3,90%, perché ha beneficiato della notizia che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla possibilità per la società di produrre medicinali destinati alla commercializzazione nella facility attualmente operativa a Milano, e si tratta di autorizzazioni che riguardano produzione di medicinali dedicati a una specifica terapia genica, che è molto importante per la società. E infatti è uno dei migliori titoli, Molmed appunto con un 3,90%, Safebag più 25,70%, Biancamano più 5,5%, Poligrafici più 4%, fronte opposto Metorius Capital meno 6,30%, come Softec, Clabo meno 4%, Fiera Milano pure. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore. Traffico. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Oh, ultimo. nell'ultima parte di Focus Economia cerchiamo di mettere chiarezza, lo dico non perché i dati non siano chiari volutamente, non sono mai chiari i dati sull'occupazione e disoccupazione, intanto perché la disoccupazione, lo ribadisco, fotografa chi non sta trovando lavoro tra chi lo sta cercando. L'occupazione invece va a vedere tutti quelli che lavorano tra quelli in età di tra quelli nella fascia della forza lavoro. Non è la stessa cosa, perché molte volte ci sono persone, i cosiddetti inattivi, che non lavorano e non lo stanno cercando. Ci sono casi anche positivi, cioè uno può scegliere volontariamente di non cercare lavoro perché ha altre esigenze nella vita, può permettersi di non cercare lavoro, ha delle fortune anche economiche. Oppure ci sono casi di persone, specialmente ahimè le mamme giovani, ma non solo, che non cercano lavoro perché il lavoro che gli viene offerto non è abbastanza soddisfacente dal punto di vista economico, per cui preferisci stare a casa e risparmiare in altre voci, per esempio le voci che riguardano l'assistente domestica. Lo dico perché anche questa volta il dato di oggi va spiegato. Allora, l'Istat fotografa un andamento della disoccupazione in calo, e infatti il dato che abbiamo sentito commentare anche da Renzi è una disoccupazione che scende all'11,5%, è il dato più basso dal dicembre 2012, dall'11,8 all'11,5. Da quello che ho capito io però, questo miglioramento è riconducibile soprattutto, e qui iniziano i problemi, all'aumento degli inattivi, che non vengono calcolati, quindi sono aumentati di 32.000 unità le persone che non stanno cercando un lavoro e non lavorano chiaramente, sono 200.000 in un anno. Torna a salire la disoccupazione giovanile, che passa dal 39,5% di settembre al 39,8%, però in calo, come ricordava anche Renzi, rispetto ai livelli di un anno fa. Ci sono sostanzialmente, si partiva dal 42%. La fascia di età 34-49 anni ha ancora molte criticità, però, perché negli ultimi 3 anni si sono persi 450.000 posti di lavoro. Sono aumentati nella fascia sopra i 50 anni, ma anche qui, attenzione, l'effetto è dovuto soprattutto al rinvio dell'età del pensionamento, più 900.000 occupati in quella fascia negli ultimi 3 anni. I just can't take my eyes, can't take my eyes off. Professor Carlo Della Ringa, economista, ex sottosegretario al lavoro, deputato del PD, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Professore, siccome le riconosciamo da sempre una grande oggettività e obiettività, al di là del fatto che adesso le faccia deputato, non perché il deputato non sia oggettivo, ma quando uno va in politica magari la perde un po' l'obiettività. Allora, da questo punto di vista dobbiamo essere contenti, lasciamo stare in questo momento la narrazione renziana, dobbiamo essere contenti o no? Perché se uno guarda il dato statistico dice vabbè, in effetti comunque 11,5 è meglio di 11,8, magari c'erano anche gli inattivi prima, poi vedi che però sono aumentati gli inattivi, quindi? Ma dunque no, i dati di questo mese non sono positivi. Oh, no. Le tendenze possono continuare ad essere abbastanza positive, no? Però non questo dato, ecco, perché questo dato ci dice che la riduzione della disoccupazione è quasi tutta spiegata dall'aumento della inattività, cioè dallo scoraggiamento. E in particolare, ecco, la sua analisi era correttissima, io aggiungerei questo aspetto, cioè che lo scoraggiamento è dovuto soprattutto alle donne. Eccoci. Cioè c'è sia questo mese conferma una tendenza ormai annuale di una perdita di occupazione femminile e di un forte aumento della inattività femminile. Quindi chiaramente siamo di fronte a un fenomeno che rovescia quello che eravamo abituati a commentare fino a diversi mesi fa, cioè che le donne erano state colpite meno dalla crisi. Invece bisogna dire che in questi ultimi 8-9 mesi perlomeno sono rientrate pesantemente nella crisi, hanno perso posti di lavoro e c'è stato un fortissimo aumento dello scoraggiamento. Quindi chiaramente la loro disoccupazione, anche la disoccupazione diminuisce, ma non diminuisce perché sono aumentati i posti di lavoro, è perché c'è tante donne che ormai hanno rinunciato a cercare o perlomeno non cercano in modo ufficiale. E questo è un fenomeno da indagare. Questi dati mensili dell'Istat non sono mai così dettagliati da permetterci di andarci dentro. Ecco, si possono solo fare delle ipotesi. Se vuole ne faccio una. Mi dica. Cioè qui quello che soffre molto in Italia ormai è l'assistenza, sia quella pubblica che quella privata. Le famiglie hanno sempre meno soldi per pagarsi l'assistenza agli anziani e ai bambini piccoli, e i comuni hanno sempre meno soldi da dare per l'assistenza pubblica. E quindi chi c'è dentro in questo mondo? Che faccio di milioni di persone, non scherziamo, i numeri sono altissimi. Soffre questo mondo per mancanza di reddito, sia pubblico che privato, e quindi queste donne sono costrette ad abbandonare questi lavori, che ricordiamo fra l'altro sono lavori che almeno sulla carta sono stabili. Cioè, gran parte delle badanti in Italia, quelle naturalmente del segmento ufficiale, non quelli che lavorano in sommerso, ma hanno un contratto a tempo indeterminato e che le famiglie fino a poco tempo fa se le volevano tenere, ma non ce la fanno più a tenersele. Quindi queste, che molto spesso sono delle straniere con permesso di lavoro, si trovano per strada e magari non si rivolgono nemmeno agli uffici di collocamento, le inserzioni, cercano attraverso conoscenze. Magari non sono neanche del tutto scoraggiate, però sono un po' fuori dal mercato del lavoro. Diciamo che questa è un'interpretazione buona, quella che sto facendo io, no? Sì, io aggiungerei però anche una cosa, nel senso che, professor Della Ringa, visto che lei faceva l'esempio, ci ricordava come questi inattivi che aumenti la componente femminile in chi non sta più cercando un lavoro, bisogna anche vedere che tipo di salario ti offrono, perché non vorrei che essendo donne, essendo anche giovani, perché spesso si hanno un problema delle dei figli a casa, cioè, è chiaro che una persona fa due calcoli, se tu mi offri 800 euro, 1000 euro al mese e io ne devo spendere 800, altrettanti per avere in casa la badante o meglio ancora la babysitter, la donna che tiene i miei figli, mi faccio un calcolo, dico sai che c'è anche un aspetto umano, sto di più con i miei figli, tanto non ci guadagnerei, no, nel senso che un problema è questo, è la qualità del lavoro che viene offerto. A me ha impressionato negativamente anche un altro dato però, professor Della Ringa, perché insomma vedere che i contratti a tempo determinato sono quelli che sono più aumentati, e che il tempo indeterminato con un incremento di sole 1000 unità rispetto a un anno fa nel mese in questione, vuol dire che l'effetto che pure c'era stato della decontribuzione iniziata a gennaio e poi del Jobs Act a marzo si è già esaurito. Da come la capisco io, le imprese che volevano assumere, che avevano aspettato, hanno assunto tra gennaio e luglio, o gennaio e settembre, ottobre, se vado a memoria sui dati, e poi basta, quello è finito. Sì, infatti questo conferma quello che ho detto io, i dati non sono positivi né di questo mese né del mese precedente, perché noi abbiamo perso 80.000 posti di lavoro, per cui tutto l'effetto sull'anno, sui primi 9 mesi, è quasi dimezzato, ed è chiaro che questo si manifesta soprattutto nei contratti stabili che non ci sono più, mentre invece quelli a tempo determinato sono quei pochi che tirano ancora. Allora non c'è dubbio che c'è un affievolimento della ripresa, no? Ma tutti lo riconoscono, e quindi questo fa tutt'uno con questo mercato del lavoro che improvvisamente questo mese, da quello precedente, da 2 mesi a questa parte, batte un po' in testa, e quindi tutta quella positività che avevamo salvato viene un po' a cadere. Sarà la sicurezza, saranno i paesi emergenti, sarà qui e là, ma le cose si cominciano a vedere nel PIL e si vedono anche nel mercato del lavoro. Quello che dicevo io prima può contribuire, cioè ricordo che molte di queste badanti, ma se si va in giro si vede che molte famiglie non ce la fanno, ed erano badanti con contratto a tempo indeterminato. Basta che 50.000 o 60.000 di quel milione e mezzo di badanti che ci sono non vengono più riconfermate dalla famiglia, vengono licenziate, perché lì si va presto a licenziare le badanti. Ecco, io ci aggiungerei anche questo, ripeto, è un'interpretazione, se vuole, un po' buona del fenomeno, ma non c'è dubbio che rimane quello che lei ha detto, che io confermo, sì. L'affievolimento. Cioè, comunque la giriamo, ecco perché noi invitiamo il governo a stare molto attento, e abbiamo fatto 2 giorni fa la puntata sulle dichiarazioni di Padoan, parlando di ieri, di scivolone forse mediatico nella comunicazione, perché se tu inizi a dare l'impressione di voler mettere le mani avanti, adesso per via del terrorismo non cresciamo più, no ragazzi, qui c'è un rallentamento che è iniziato prima del terrorismo, non c'entra niente Parigi, è tutto da dimostrare, è chiaro che il terrore non fa bene all'economia, è tutto da dimostrare quello che sarà l'impatto negativo, e non possiamo vederlo ancora. Qui c'è un rallentamento che è dovuto al fatto che stanno in alcuni casi crollando, in altri rallentando le economie su cui si rivolgeva il nostro export, Brasile, Cina e quant'altro. È vero che sta crescendo bene quello verso gli Stati Uniti, ma diciamo nelle prospettive migliori avrebbe dovuto crescere sia quello verso gli Stati Uniti, che vanno bene, ma anche mantenersi la quota verso Brasile, Cina e altre economie emergenti. Così non sta avvenendo. Lei a questo punto che dicembre si aspetta della Ringa? Io spero che sia novembre, che questo è ottobre. Novembre, dicembre sia un po' di ripresa, perché se questa tendenza dovesse essere confermata, e come le dice il commercio mondiale ristagna, se dovesse essere confermata questa tendenza, sia nei dati del mercato del lavoro, sia in quelli del PIL, allora il trascinamento o l'eredità che quest'anno lascerà l'anno prossimo sarà veramente poca cosa rispetto alle ambizioni e alle speranze che ci sono in questa legge di stabilità. Sì, vedo che alcuni dicono 1000 euro sarebbe anche un buono stipendio, lei è ottimista, dico, ho fatto solo l'esempio della scelta che si può fare tra e perché il tema dell'inattività, i dati sulla inattività, cioè su chi non cerca più lavoro, colpiscono soprattutto l'universo femminile. Questo era il ragionamento. Grazie per la onestà e trasparenza che gli è propria, anche a Carlo Della Ringa. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.